fear of a black planet. Check it out! Pubblico zero, arrivato in osservato, si è scagliato all'interno della mischia. Dai. Ognuno adesso rischia, Yanez e Joe ci sono da un po', usciti allo scoperto, nessuno li ha cagati, dal pubblico snobbati, ma ora rispettati. 1, 2, 3, 3, 2, 1, pubblico zero, davanti nessuno. Oh, davanti nessuno, oh, davanti nessuno. Oh, 1, 2, 3, 3, 2, 90, in comodo si chiama Yanez e nessuno gli comanda come fare il suo scratch. Oh, yeah. Se ti tagli questo grafico e accompagna questa banda, mentre si fa quella cosa che si chiama rap, dai, R.A.P., R.A.P., R.A.P. Hit me! Qui c'è il pubblico Z.R.O., non lo so se puoi capire il nostro suo N.O., ti cago questo intro e dentro nella fottuta pista, sono Yanez, sono un rasta, no, sai, dimmi se vuoi, hey, o fai un cazzito, e se la donna non conosci non esprimere giudizi se non sai chi siamo noi, non meriti rispetto, e qui l'ho scritto, e qui l'ho detto. Lo strappo tutto piatto, Uzi, senti qui, lo strappo tutto Joe. Ah, quanto motherfucker, hai sentito in vita tua, io mi chiamo Joe, sai, porto la censura, io non sono un gym, la mia lirica è un siluro, studi solo bitch che ti credi forte e duro. Have you forgotten? Public Zero.